Il successo del modello, che ancora occupa la vetta della classifica di categoria, ha indotto gli uomini Ford a non stravolgerne l'impostazione. Così la nuova Focus Station Wagon è pronta a riaffermare la sua leadership con pochi ritocchi estetici e un arricchimento della dotazione di serie. Per capire che cosa è cambiato nell'ultima familiare dell'ovale blu, Quattro Ruote ha optato per la Titanium, spinta dal collaudato 1.6 turbo diesel e frutto della collaborazione con il gruppo PSA Citroën. Ecco la carta d'identità di quest'auto. Nome: Ford Focus 1.6 TD CI Station Wagon Titanium. Carrozzeria: Station Wagon 5 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,47 metri, larghezza 1,84, altezza 1,50. Motore anteriore trasversale turbo diesel, 4 cilindri in linea di 1560 cm3, potenza 109 cavalli e trasmissione trazione anteriore cambio manuale a 6 marce. E concludiamo con il prezzo: 21.401 euro.